Rita Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna, nonché naturalmente l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it, che vi permetterà di ascoltarci in tutto il mondo, ma da oggi potete, da ieri anzi per meglio dire, potete ascoltarci anche in tutta l'Emilia Romagna o quasi, diciamo che per adesso è circoscritta alla provincia allargata di Bologna, tramite il sistema DAB che vi permette appunto di ascoltarci non solo tramite la solita radiolina, ma ci vuole una radio appunto che abbia il sistema DAB incorporato. Comunque questo sistema dà la possibilità di ampliare il nostro raggio d'azione, che nel giro di qualche mese si amplierà ancora di più. Mentre vi ricordo che siamo ancora sempre nella campagna abbonamenti che vi permette di far ascoltare, di far continuare la vita di questa radio, che ha bisogno appunto del vostro sostentamento. Già c'è stato l'incontro sabato scorso per venerdì, a dire il vero, per la presentazione del calendario. È stato un discreto afflusso e la cosa ci ha fatto molto piacere. Ci sarà anche la cena il 13, e se siete interessati sicuramente siete ben accetti. Città Fujiko Live Club ogni mercoledì, ancora una volta, non ce l'ho col venerdì, ancora una volta in onda dalle 10.30 in poi, un paio di ore di musica live di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. Città Fujiko Live Club, che inizia sempre con una novità, e oggi è una novità che a me personalmente fa molto piacere, forse ad alcuni di voi no, perché insisto molto. Ci sono alcune bands che ho molto piacere quando le trasmetto, ho molto piacere nel farle ascoltare, perché onestamente al tempi attuali non sono molto conosciute, soprattutto presso i giovani. Una di queste è la band King Crimson, super super super band. Alcuni dicono che sono stati loro a inventare il progressive, sono attivi dal 1968, e addirittura uno dei primi concerti che fecero fu al free concert che i Rolling Stones organizzarono in Hyde Park per presentare il nuovo chitarrista Mick Taylor, dopo la fuoriuscita della band di Brian Jones. Però siccome Brian Jones morì un paio di giorni prima, alla fine il concerto divenne un memorial per appunto l'ex chitarrista dei Rolling Stones. Al di là di Robert Fripp, che è sempre il fulcro della band, attorno a lui hanno girato, oserei dire, decine sicuramente di musicisti di tutti i generi, da violinisti a chitarristi, bassisti, eccetera. E ogni tanto Robert Fripp attinge dal proprio immenso archivio e pubblica un album. È il caso di questo che vi presento, che vi propongo oggi come novità. Si chiama Live in Fréjus, August 27, 1982, e già il titolo dice tutto, a parte che Fréjus, ma dovreste saperlo, una città del sud della Francia che ha un'arena romana. Onestamente io l'ho vista solamente da fuori, non mi sembra in condizioni ottimali, ma ci fanno concerti costantemente, per cui vuol dire che la salvaguardia della persona è assicurata. Il tutto, come dicevo, registrato il 27 agosto del 1982. La formazione è quella che vede, oltre a Robert Fripp naturalmente alla chitarra, Tony Levin al basso, Bill Bruford, grandissimo batterista, e Adrian Belew alla chitarra e alla voce. È il periodo più, come dire, più criptico per quel che mi riguarda dei King Crimson. Onestamente mi allontanai anche un attimo da questa scelta musicale, ma in realtà poi andandolo ad ascoltare col senno di poi, diciamo così, sono veramente notevoli. Chi come me era abituato ai primi King Crimson, quelli, a parte i primi due album, quelli di Lizard, The Islands, trovarono abbastanza ostica questa band. Comunque adesso ce l'andiamo ad ascoltare, e a proposito di cambiamenti, uno arrivò con una band, con un album che si chiamava Lark's Tongues in Aspic, e ce l'andiamo ad ascoltare la title track di quell'album, la parte 2. Loro sono King Crimson. Oh, Finale di concerto per quel che riguarda King Crimson il 27 agosto del 1982, Arena del Fréjus in Francia, e in realtà loro aprivano il concerto dei Roxy Music quella sera. Il tour europeo portò appunto le due band insieme anche a Reggio Emilia due sere dopo, dove li vedemmo in una serata veramente memorabile. E vedere in una sera solo King Crimson e Roxy Music è veramente una manna, una cosa che ai tempi di adesso non è più fattibile, anche perché appunto i Roxy Music non esistono più e i King Crimson non si sa bene come siano messi. Comunque, l'Arkston Guinness Peak Part 2, il brano che ci siamo ascoltati dal nuovo album, si fa per dire, dei King Crimson, diciamo album appena uscito, ma con una registrazione vecchia appunto del 1982. L'album si chiama Sheltering Skies. E adesso in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo un po' di covers di brani dei King Crimson. Ce ne sono tanti in giro, molte fra parentesi, ce le ascolteremo un po' più avanti. Sono fatte da ex membri della band, ma questo è un discorso che affronteremo più tardi. Adesso iniziamo da un paio di cose italiane. Vi ho già parlato diverse volte di questa serie che si chiama Jazz Italiano Live. Erano dei CD dal vivo che venivano venduti insieme al quotidiano La Repubblica o al settimanale L'Espresso. Sono uscite tre annate, se ricordo bene, ed era un'operazione benemerita, come ho già detto diverse volte, perché permetteva a chi come me non mastica molto di jazz, anzi quasi niente, di conoscere nomi nuovi, di comprare CD di gente che altrimenti, di musicisti che altrimenti non avresti mai comprato. E uno di questi è Roberto Gatto, grande batterista, uno dei migliori batteristi jazz italiani, che partecipa a questa rassegna, diciamo così, a questa collana, con una registrazione effettuata il 7 aprile del 2008 in una serata che lui chiamò omaggio al progressive rock. Infatti sono tutti brani appartenenti a questo genere, più un brano scritto da lui stesso. Si va dai Genesis con Watcher of the Sky, si va ai Pink Floyd con Money e tanti altri, fra cui due brani dei King Crimson. Ho scelto per iniziare questa piccolo excursus in covers di brani di King Crimson una cosa dolcissima e bellissima che si chiama I Talk to the Wind, lui Roberto Gatto. Thank you. All'inizio della carriera, stiamo parlando dei primi anni 70, la premiata Forneria Marconi, derivati da una band beat italiana che si chiamava I Quelli. La premiata Forneria Marconi, dicevo, faceva molte covers, anche un paio di King Crimson. Una è quella che ci siamo ascoltati, si chiama Pictures of the City, secondo loro. In realtà il titolo originale è Pictures of a City, una cosa, una sottigliezza, diciamo così. Il tutto è tratto da un mega cofanetto bellissimo con 4 CD che si chiama 10 anni live 1971-1981. Il brano che ci siamo ascoltati, appunto Pictures of the City, è stato registrato al Club Carta Vetrata di Bollate nell'ottobre del 1971 ed è uno dei classici del secondo album dei King Crimson. Loro erano la premiata Forneria Marconi. Yeah. Siamo a Capodanno del 1999, anzi la mezzanotte è passata da pochi minuti e quindi siamo già nel ventunesimo secolo, e quel geniaccio di Warren Haynes con i suoi God Mule cosa fanno? La prima canzone che fanno nel nuovo secolo è proprio 21st Century Schizoid Man dei King Crimson, che parla appunto della schizofrenia degli uomini di questo secolo, che si è aumentato negli anni a livelli veramente esponenziali. God Mule è una super super band, una delle mie preferite in assoluto, e Warren Haynes, il chitarrista, cantante, fondatore, è un'enciclopedia vivente musicale, può suonare assolutamente quello che vuole, e l'ho dimostrato con questa registrazione appunto effettuata ad Atlanta in Georgia, Roxy Theater, in quello che era già il primo gennaio dell'anno 2000. Beh, dopo ci sono anche un altro paio di covers, fra cui questa degli Who, che meriterebbe di essere ascoltata. Ma andiamo avanti con un personaggio che potrebbe occupare l'intera trasmissione. Lui si chiama Alan Peter Cooperschmidt, ma tutti noi lo conosciamo come Al Cooper. È un tastierista, cantante, multistrumentista, suona veramente di tutto. Lui è nato a New York e negli anni 60 era un ricercatissimo session man, il suo l'organo di Like Rolling Stone di Bob Dylan, quello originale, e poi ha suonato anche il corno francese e il piano, il corno francese all'inizio bellissimo di you can Get Always What You Want dei Rolling Stones appunto, e tantissime altre. Malgrado questo, nel 1965 entrò in una band che si chiamava Blues Project, una delle band di ragazzi bianchi che per primi suonavano il blues dei neri. Se ne andò però per formare nel 1967 i Blood, Sweat and Tears, completamente una cosa diversa, anche se il blues era la radice di questa mega band con fiati eccetera. Ha anche fatto incidentalmente un album bellissimo che si chiama Super Session insieme a Mike Bloomfield e Steve Stills. Poi ha fatto una carriera solista con grandi successi fino al 2021, quando ha deciso di ritirarsi per problemi di salute. Lo vedemmo tanti anni fa al Naeem di Forlì, e questo dischetto che ci andiamo ad ascoltare, anzi doppio dischetto, si chiama Soul of a Man, è stato registrato al Bottom Line di New York City nel febbraio del 1994, e fra altre cose c'è una cover di un brano dei King Crimson che arriva da un album che si chiama Beat, e il pezzo invece si chiama Heartbeat, ma ce lo dice lo stesso Al Cooper. This is a blues song, however it's Adrian Blues song. I can't even begin to tell you how difficult this song is to play, because Adrian Blue is nuts. Wanna feel your heart. So close.

Mel Collins. Come ha detto all'inizio della trasmissione, innumerevoli musicisti sono transitati all'interno dei King Crimson, punto fermo unico Robert Fripp, e molti di quei musicisti, una volta che sono usciti dalla band, sono entrati o hanno formato altre bands nelle quali però proponevano alcuni brani dei King Crimson magari scritti da loro. Qui abbiamo una band che già dal nome dice tutto, si chiama 21st Century Schizoid Band, cioè la band schizoide del XXI secolo, parafrasando naturalmente il brano che ci siamo ascoltati prima dai God Mule. E i musicisti sono Mel Collins, come avete sentito, al sax, Peter Giles, il primo bassista della band, Ian McDonald, il primo tastierista e flautista e saxofonista della band, e John Wallace alla batteria, che è stato in Lizard e in Island. In più Jacko Jacksic, spero di aver detto bene il nome ma ho molti dubbi, che entrò talmente bene nella parte che poi Robert Fripp l'ha voluto al suo fianco per i King Crimson fino ai giorni nostri. Hanno fatto una serie di album, 4 se ricordo bene, tutti dal vivo, e questo in particolare si chiama Live in Italy. È stato registrato appunto in Italia in diverse occasioni, in diverse serate. Questa in particolare il 25 marzo del 2003, la band è durata pochissimo, dal 2002 al 2004, ma nel 2003 suonarono al Naima di Forlì, che ho già citato in precedenza, e il brano splendido, secondo me, che arriva da Ireland, si chiama Ladies of the Road. A concludere questa forzatamente brevissima rassegna di covers dei King Crimson, ce ne sarebbero ancora tante, molto velocemente arrivano gli Asia, super band che vedeva al proprio interno, oltre a Cal Palmer, da Emerson, Lake and Palmer, Geoff Downes, dagli Yes e dai Buggles, inizialmente anche Stevie Howe alla chitarra, e naturalmente John Wetton al basso e alla voce, che ha suonato per diversi album nei King Crimson. Ci andiamo ad ascoltare in questo brano che si chiama Book of Saturday, un brano che proviene dall'Arkstone in Espic e che conclude questa piccola rassegna. Loro appunto sono Asia, Book of Saturday. Touch the road and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. I have to choose. Seconda parte di Città Fujiko dell'ultima trasmissione di novembre 2024. Siamo infatti al 27, il prossimo sarà già in dicembre, ultimo mese di questo anno. E naturalmente la seconda parte è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, novità non in senso assoluto, essendo una registrazione del 1982 da parte di King Crimson. L'album si chiama Sheltering Skies ed è uscito in queste ultime settimane, e come tutte le cose dei King Crimson, ma io sono molto molto molto di parte, è assolutamente notevole. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Mate Kudasai ed è stato registrato appunto all'Arena del Fréjus in Francia nell'agosto del 1982, come in un concerto a supporto, per così dire, dei Roxy Music. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, tantissime cose. Oggi abbiamo addirittura 7 decadi, non so se riuscirò a fare tutte, ma intanto iniziamo dagli anni 60, esattamente dal 1969. Il secondo album live dei Rolling Stones si chiama Get Your Eyes Out, è stato pubblicato originariamente in long play nel 1970, ma poi nel 2009 è stato ripubblicato con un ottimo, un splendido box che comprendeva, oltre alla versione originale dell'album, un secondo dischetto con una serie di inediti e un terzo dischetto con i due act che aprivano il concerto di quella sera. Niente proprio di meno che B.B. King e Ike Tina Turner, ma ne parleremo un'altra volta di questo, perché adesso ci andiamo ad ascoltare Rolling Stones. Siamo al Madison Square Garden, appunto il 27 novembre del 1969, un super classico che si chiama Under My Thumb. Era il 1969 quando fu registrato questo brano, che si chiama Under My Thumb, fa parte del secondo dischetto di questa, di questo mega box che comprende 3 CD e più DVD. Nel secondo CD ci sono 5 inediti, appunto Under My Thumb è uno di questi, il 27 novembre del 1969 al Madison Square Garden. E sicuramente gli accordi e il ritmo sono uguali, ma questo era I'm Free, che è un altro brano rispetto ad Under My Thumb. Ma noi andiamo subito direttamente al 1975. Ho detto prima che ci sono delle band che vi faccio ascoltare tutte le volte che posso, e una di queste band è quella dei Weather Report, fondata da Joe Zawinul, tastierista, e Wayne Shorter, sassofonista, nel 1970 e durate fino al 1986. Nel 2002, quindi postumo, uscì un doppio dischetto che si chiamava Live and Unreleased, che rendeva onore, rendeva omaggio a questa grandissima band di, chiamiamola fusion, chiamiamola rock jazz, chiamiamola jazz rock, chiamatela come volete, ma sicuramente una grandissima, grandissima band. Sono registrazioni effettuate in diverse occasioni, in diverse epoche. Questo in particolare è al New Victoria Theatre di Londra il 27 novembre del 1975, un medley fra due brani della loro prima epoca, diciamo così, Direction e Doctor Honoris Causa. Sono il Weather Report dal 1975. We'll be right back. Due brani uniti in medley, The Weather Report, Dr. Honoris Causa e Direction, registrati live in quel del New Victoria Theatre di Londra il 27 novembre del 1975. E ho già detto molto velocemente, sta arrivando la pubblicità, ho già detto diverse volte, tante volte, che Record It Today non è nient'altro che una scusa per ascoltarci pezzi, bands, musica che non avrebbe nessun senso logico tra di sé, se non quello della data di registrazione. Infatti dopo Weather Report adesso arrivano gli Iron Maiden, che non hanno bisogno di presentazioni. Dirò solamente che questo brano, che si chiama Still Life, è stato registrato al NIC, il New Entertainment Center di Birmingham in Gran Bretagna, il 27 novembre del 1988. Iron Maiden. Thank you. All'inizio si chiamavano Southern Death Cult, poi sono trasformati in Death Cult per finire poi solamente con Cult. Grande band anche questa, Ian Astbury, il cantante, è sempre stato è l'unico membro che ha unito queste tre band, ma con i Cult è arrivato anche Bill Duffy e la musica ha avuto un cambiamento radicale. Da quello che veniva chiamato goth rock, rock gotico, si è passati all'hard rock, come avete sentito in questa Rain. Live Cult London 1991, Part 1, cioè la prima parte, era inserita all'interno di un'antologia che si chiama Pure, che aveva un dischetto appunto antologico e più questa cosa dal vivo, e poi c'era però la possibilità, un voucher, chiamiamolo così, per comprare solamente via email e solamente sul loro sito la seconda parte. Quella che ci siamo ascoltati è la prima, e il brano che appunto è quello che vi ho proposto si chiama Rain, registrato al Marquee, il locale storico di Londra, il 27 novembre del 1991. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, esattamente anche dall'altra parte degli Stati Uniti. Siamo a Los Angeles, sul Sunset Strip, alla House of Blues, in concerto un quartetto che ha fatto la storia della musica di Los Angeles fin dal 1977. Adesso sono ancora in giro, hanno promesso, ma sapete che queste promesse non contano molto, che sarà l'ultimo tour. Loro si chiamano X, detti anche X all'italiana. È un una grande band, con la prerogativa di avere un cantante maschio e un cantante femmina. Live in Los Angeles si chiama questo album, appunto registrato sul Sunset Strip a Los Angeles, appunto, il 27 novembre del 2004. E tanto per rimanere in tema, il brano si chiama proprio Los Angeles. Los Angeles di così si muore, nel senso che veramente è tutto dedicato a Los Angeles, questo brano, l'album che è stato registrato appunto nella città degli angeli, e poi anche la band, che è uno dei simboli della musica di Los Angeles. Si chiamano X e appunto il brano Los Angeles era il 27 novembre del 2004. Molto velocemente, 2013 viene rappresentato dai Depeche Mode, band che non ha bisogno di presentazioni, per cui passiamo subito alla musica. Il brano è tratto da un doppio dischetto più DVD che si chiama Live in Berlin, naturalmente registrato nella capitale tedesca, anzi non è la capitale, è la capitale Bonn, scusate, e in Germania il 27 novembre appunto del 2013, un classico della prima ora, Just Can't Get Enough, Depeche Mode. We'll be right back. can't get it up, I just can't get it up. Just like a rainbow, you know you set me free. I just can't get it up, I just can't get it up. Il pubblico continua così per un po'. Siamo a Berlino insieme a Depeche Mode, Just Can't Get Enough, un classico della prima epoca di questa band, 27 novembre 2013. Non ci credevo, ma riusciamo a farle tutte. Prima però vi devo dire che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica live Città Fujiko Live Club, da Radio Città Fujiko, scusate, da Bologna, 103.1, eccetera, eccetera, eccetera. Appuntamento mercoledì prossimo. Vi ricordo che venerdì è il Black Friday Record Store Day, un sacco di cose live interessanti. Non ho tempo di farvi un mini elenco, ma vi lascio in compagnia di una registrazione effettuata lo scorso anno, 27 novembre 2023 a Kyoto in Giappone. Ve l'ho proposto alcune settimane fa come novità. Loro sono Lunasa, live in Kyoto, appunto, registrata nella località giapponese un anno fa. Il brano è un titolo in gaelico, lo dirò malissimo, si chiama Ballo di Egg. Lunasa, ciao a tutti da Nevio, ci sentiamo mercoledì prossimo.